macchina da audio più, cazzo. Sicuramente questo non ha problema con la città di Tessaro Altere. In Viale Umberto stai salendo. No, Viale Umberto. Ecco al mercato, che da lì si chiama... Oh, io posso passare anche da dietro, eh? Ormai da qua conviene andare a salire in Viale Umberto. Conviene salire in Viale Umberto, fai il corso Trinità, Viale Umberto. Quando arrivi al distretto, giri a destra, subito a destra e scendiamo a Piazza Tola. Comunque c'è un labirinto qua, se devo venire che sei proposto a ingiriare. E beh, che bintra, dai come deve andare mi. Sì. Comunque, lì, San Riga è tutto vicino, no?